Sounds. Pillole di musica domenicali. Buongiorno a tutti, siamo su Radio Città Fujiko, io sono Gabriele e oggi per New Sounds abbiamo come ospite un artista di Bologna, un rapper trapper che gli piace essere definito come trapper o rapper, almeno questo è quello che so, è così Mido? Bella raga, sì dai, diciamo sì, ma non piace adesso ormai essere visto come un trapper, ormai vedono tutti come i trapper, no? Oggi vado in giro, ti vedono con gli orecchini un po' con questo stile, sei Sfera o Dark DPG. No dai, il mio stile diciamo che è un pop rivisitato, R&B, molto mio però, molto mio, se senti il timbro è molto mio, il suono. Quindi ci sono più influenze, quindi non parliamo solo di rap, non parliamo solo di trap, ma parliamo anche di R&B, soul, funk più o meno. Bravo. Una curiosità mia personale, so che il tuo nome è il Mehdi, vero? Sì. Però il tuo nome d'arte è Mido. C'entrano le due cose? Cioè nel senso sono collegate? Beh no, non sono collegate perché dai, magari solo perché si assomigliano, Mehdi, Mido. Cioè ormai tipo so che anche altri Mehdi che ho conosciuto li chiamavano Mido i loro genitori, perché anche loro comunque erano dei teppisti come me, che dei teppistelli da bimbi facevano casino, e c'era sta serie TV che si chiama, egiziana, che si chiamava Mido il teppistello, il teppista, e niente, fin da piccolo mi chiamavano così. E la passione per la musica come nasce? Cioè, non so neanche come spiegarlo. Cioè, mio padre è un ex musicista, intanto suonava il violino. Figlio d'arte, quindi? Sì, sì, sì, sì. Tutti artisti, tranne mia madre. Comunque, grazie a mio padre, che fin da piccolo andavo a guardarlo suonare, andavo lì, toccavo gli strumenti che lui suonava, no? E poi io giocavo a calcio, e mentre giocavo a calcio suonavo, mi facevo mandare negli spogliatoi perché suonavo in campo così col petto. E allora ho capito che la musica era la mia vita. E senti una cosa, so che comunque per il genere che fai è molto importante anche il produttore, chi produce. Nel tuo caso chi è il tuo produttore? Allora, il mio produttore ora è Paris Hilton, e lo saluto anche, grande Paride. Ti dirò, mi sono trovato molto bene con lui perché ci capiamo, cioè siamo due musicisti proprio, cioè lui poi è più grande di me, mi sta insegnando molto, mi ha insegnato molto. Penso che anche lui abbia molte cose da imparare da me, la stessa cosa. Però è tipo, io e lui ci troviamo proprio, quando siamo a suonare facciamo musica vera. Molti altri magari producer mi hanno chiesto, dai fai una strofa sul mio beat, fai qualcosa sul mio beat. Io sono sempre un po' titubante nella cosa, cerco sempre di studiarmela un po', voglio qualcosa di più. Cioè con Parix mi trovo sempre bene, faccio musica veramente, quando esce sono contento. Magari anche perché è una questione diciamo personale, nel senso essendo amici magari riuscite anche a fare qualcosa proprio di vostro, non solo musica. Ti dirò, non abbiamo iniziato a lavorare prima da amici, no, prima abbiamo iniziato a lavorare proprio per lavoro. Ok. Poi lavorando siamo diventati amici. Quindi è stato inversa la cosa. Sì, inversa la cosa, e soprattutto quello, ci incontravamo sempre in studio. Ci troviamo veramente tanto, appena inizio a suonare io un strumento, lui è canto e voli dentro lo studio, te lo giuro. Invece adesso io volevo fare più una domanda da artista. Io avevo una curiosità, ho ascoltato un po' la tua discografia e mi sono accorto che all'inizio tu prendi molto il gioco rap, cioè nel senso sei entrato e dici ok, io sono qua, mi faccio vedere come il king, cioè come solitamente questo è il gioco rap, sì, no? Sì, sì. Mentre dopo invece, procedendo, andando più avanti, le tue canzoni si sono diversificate, cioè nel senso sei diventato più personale, più intimo, tipo io penso alle canzoni come Matto, Bebe, Anche Se, che sono molto più intime come canzoni. Questo percorso lo riconosci, lo rivedi anche te, o magari è soltanto qualcosa che vedo io? No, è come, anzi ti dirò, sono partito con Quartiere, Ash Boys, anche quella prima, come si dice, non ho mai fatto scuola di canto, mai fatto conservatorio, niente, quindi cioè non so, sapendo usare la mia voce facevo quello che potevo, tipo Quartiere, ho fatto una trappata, beh, fighissima hit. Però tipo andando in studio con Parix mi ha fatto capire che io potevo fare di più, vera musica vera, cioè cantare. E poi a me sinceramente era quello che volevo, quindi cioè io magari ho detto anche aspetto di arrivare, imparare bene ad usare la mia voce e poi cacciare fuori hit del genere come Matto e cose del genere. Poi è stato tutto comunque grazie a Parix, che mi ha dato molte dritte, mi ha convinto, perché io dicevo ma non lo so se può andare, invece alla fine è così, quello è il mio stile, quello deve andare. E ancora non è niente, credimi. Ok, no, ma mi fido. E l'altra curiosità invece è sulla canzone Quartiere. Il riferimento è riguardo ad una barra che dice: ho preferito fra rubare e son finito dentro. È una leggenda, un po' fa parte del personaggio che ti sei costruito, o è una cosa real? No, è una cosa vera, anzi, a volte magari ci penso, no, se scrivere certe cose dentro un testo, no? Però dico, ma scusa, allora cosa scrivo a fare se non devo scrivere cose vere, no? No, è vero, mi sono successe tante cose, poi quello è stato un episodio che comunque una volta è successo, che abbiamo rubato, abbiamo fatto un furto e sono stato arrestato in questo modo. Cioè non era per dipingerti in una maniera cattiva, era solo per capire se davvero c'è aderenza rispetto alla realtà e ai testi, anche perché nella canzone Quartiere, tu appunto anche nel video, si vede che sei del Pilastro, no? Giusto? Sì, non sono esattamente del Pilastro, però diciamo che mi hanno accolto come una famiglia tutti quelli del quartiere da 3-4 anni. A proposito di video, ne approfitto anche per farti complimenti per quanto riguarda, beh, oltre a tutto il montaggio eccetera, che immagino ci sarà un gran lavoro dietro, ma soprattutto per come ti muovi, per i tuoi balletti che mi piacciono un sacco. Grazie. Creano anche, cioè si vede che fa parte di un personaggio che comunque sa stare sul palco. Ente, era un complimento così spassionato. Grazie mille. Adesso ripassiamo un po' alle domande un po' più tecniche. Su i social ho notato che tu sei entrato nel 404 Group. Parlaci un po' di questa unione di artisti. Che cos'è, come nasce e come ti sei trovato tu? Allora, ti dirò, quando mi sono trasferito qua a Bologna ho lavorato con un po' di persone, no? Sai, comunque molte volte quando lavori con uno, cioè a volte certa gente va e viene come il vento. E allora praticamente avevo iniziato a lavorare anche con questo ragazzo che lavorava con il CEO di 404. E niente, alla fine non avevo trovato da dire, abbiamo discusso, e nel mentre c'era il CEO di 404 che è Ruggio. E niente, lui mi scriveva sempre: bella, dai, ci dobbiamo beccare per un caffè, per parlare, cose così. Io iniziavo sempre a fidarmi di meno perché l'avevo preso tante volte. Niente, alla fine, penso a te, siamo usciti a prendere un caffè, abbiamo parlato e mi è sembrata una cosa molto interessante. E alla fine abbiamo iniziato a lavorare così dal nulla e ho conosciuto tutto il team, come Topino. Beh, Cuba era sempre con me, lui il mio stilista. Però ho conosciuto tutto il team, tutto quanto, abbiamo iniziato a lavorare insieme già da China, vero? Sì. Eravamo un po', come all'inizio eravamo un po' tutti, come si dice, un po' ognuno per le sue. Adesso pian piano stiamo lavorando benissimo, sono contentissimo perché, cioè, dal nulla è nata questa famiglia comunque, dal nulla, non me lo immaginavo neanche, pensavo sempre di restare magari più solo. E ora come ora stiamo andando bene, dai, infatti saluto tutto il team di 404, grandissimi raga, I love you, Ash Boys. Un'ultima domanda, ti volevo chiedere se hai progetti futuri. Ne ho di progetti, non so neanche se posso parlarne. C'ho un progetto grandissimo adesso che sto lavorando con 404 sempre, che secondo me è una hit, è una cosa innovativa proprio, non vedo l'ora di almeno spoilerarla. Ma... E adesso che stai cominciando un po', diciamo, ad importi, no, nel panorama, cioè nella scena un po', non solo bolognese, ma comunque stai cominciando ad emergere, ti sono arrivati già delle richieste di collaborazione da parte di altri magari emergenti? Ti dirò, uno sbaglio che faccio io è che mi arrivano molte richieste. Sei molto selettivo, diciamo. Molto, sì, io amo la mia arte, quindi sono molto diffidente, già a parte diffidente, forse sbaglio. Ho avuto già come magari già avete visto, a Milionardo è uscita Ola, tra poco non posso spoilerare il chi, però uscirà il featuring con un ragazzo di Milano. E niente, per ora siamo messi così. Io sono uno che mi piace molto fare i singoli, li amo, mi piace avere la canzone tutta mia, poi adesso vediamo, quando ci sarà qualcuno che ho voglia di mettere nella mia canzone lo metteremo. Lo pescherai? No, è come un figlio, bro, cioè non voglio mettermi magari la gonnellina, no, non posso, cioè, Vabbè, fa parte anche un po' della figura dell'artista essere un po' narcisista tra virgolette, cioè curare sì. La sua, no, ma magari, cioè, vedo che non tutti, sai, sono tutti pronti a fare quelle collaborazioni così a caso solo per fare musica, perché poi solo per far girare o cose. No, io sono molto selettivo e continuerò ad essere così perché amo la mia musica. Io ti ringrazio a nome di tutta Radio Città Fujiko, anche dei nostri ascoltatori, e adesso direi che ci salutiamo e mandiamo in onda poi anche se il nuovo singolo di Mido. Grazie mille, grazie a voi. Bella, bella per Ash Boys, bella per 404, bella per Radio Fujiko. Alla prossima. Gang. Oggi non piove, il tempo è brutto solamente sopra di me. Credo in me stesso, ma ogni tanto vado giù, non è facile. Tornare a non cadere giù, nulla di che. Però il mio cuore è forte ormai, vuoto dentro i miei jeans, yeah. Penso solo a fare, no, fenomeno, sono io il nuovo D, yeah. Sognavo di stare al caldo un po', più comodo, non ho dormito il weekend, yeah. Da giorni che non apro la DM, che mi bro sopra una BM, lo stiamo facendo senza lire, oh no. Giù nei miei con le pop, je suis marocain, qui sono io la star, punta su di me, ah, yeah. Fake friends si comportano male, vabbè. Fanbase sperano di comprarmi col cash. Business, la mia vita bruciamo a less. Fitness, questa tipa sto facendo, wow, no, no. Come minimo, minimo, minimo, sto per i miei, oh. Dopo brillerò, brillerò, poi ucciderò questi slay. Sto facendo party all night, anche se oggi non piove, il tempo è brutto solamente sopra di me, credo in me stesso, ma ogni tanto vado giù, non è facile. Tornare a non cadere giù, nulla di che. Però il mio cuore è forte ormai, se sto fumando push, bye bye bye bye. Mi cerchi dentro il locale, mi trovi solo online. Ora che iniziano ad entrare, più soldi, più good vibes. Sto facendo del mio meglio, tu parli non sai. No, tu parli non sai, facciamo colletta con i miei, fai diviso per sei d'abitudine. Comprerò i fratelli nuovi, chain, denti d'oro, Lil Wayne, fatitudine. Non mi fido di me, so c'ho mezza affair, non lo dico a te, cosa vuoi sapere, troppe vipere. Questi vogliono vedermi morto, ho già il fiato corto, ma me non importa, sopporto. Questi vogliono vedermi morto, ho già il fiato corto, ma me non importa, anche se oggi non piove, il tempo è brutto solamente sopra di me, credo in me stesso, ma ogni tanto vado giù, non è facile. Tornare a non cadere giù, nulla di che. Però il mio cuore è forte ormai.